T'ho incontrata domani, o perlomeno mi è sembrato fossi tu. C'era troppa pulitine, ora non ricordo più. T'ho incontrata domani, che ripartivi via da dove non si sa. Hai schivato nel traffico, tu e il tuo collo di Astrakhan. Ora pranzo da solo in un lurido snack, un cretino mi dice, dottore caffè, un frappanino, un frappè, sto scrivendo per te un'incredibile funghia. Ma che razza di flirt, mi vergogno da me, se non ci fossi tu, non sarei qui con te. E sul tema del flirt, spiritoso quel solo di bar. Voglio di Frankie di Alzheimer. Rivederti è pleonastico, per una volta o due, magari per un tè. In un sogno da modello. T'ho incontrata domani, per dirti cosa in che maniera non saprei. Mi sembravi fantastica, ora non ci giurerei. Ora so in un grill nei paraggi di Ron, che mi lavo le mani nel privé. Un signore va via mentre urlo per te, un'incredibile bugia. Ma oh, che razza di flirt, mi vergogno da me, se non ci fossi tu, non sarei qui con te. È sul tema del flirt, eccessivo cui fa, sprodolando per noi, una solo di già. Signore e signori, la band. Grazie.